Capitolo 40. Elizabeth non fu più capace di frenare la sua impazienza di mettere al corrente Jane di quanto era accaduto e finalmente, avendo stabilito di omettere ogni particolare concernente la sorella e dopo aver preparato questa una sorpresa, l'indomani mattina le raccontò la parte principale della scena svoltasi fra lei e il signor Darcy. Lo stupore della signorina Bennet fu subito diminuito dalla forte parzialità fraterna che le faceva apparire perfettamente naturale ogni prova d'ammirazione fornita ad Elizabeth. E poco dopo la sorpresa diede luogo ad altri sentimenti. Le spiacque che il signor Darcy avesse manifestato i propri in modo così poco atto a farli prendere in considerazione, ma ancor più si dolse per la pena che il rifiuto della sorella doveva avergli causato. Ha avuto torto ad essere così sicuro di riuscire, ella disse, e certamente non avrebbe dovuto lasciarlo trasparire. Ma pensa quanto maggiore deve essere stata la sua delusione. Infatti, rispose Elizabeth. Me ne duole sinceramente per lui, ma egli prova anche altri sentimenti che probabilmente scacceranno presto la sua affezione per me. Però tu non mi rimproveri per averlo rifiutato. Rimproverarti? Oh no! Ma mi rimproveri per aver parlato di Wickham con tanto calore? No, non posso dire che tu abbia avuto torto a dire quello che hai detto, ma potrai dirlo quando ti avrò raccontato che cosa avvenne proprio il giorno dopo. Le parlò allora della lettera, ripetendo per intero quello che conteneva nei confronti di George Wickham. Che colpo fu quello per la povera Jane, che avrebbe potuto fare il giro del mondo senza persuadersi che in tutto il genere umano esistesse tanta malvagità quanta ne era lì radunata in un solo individuo. Né la riabilitazione di Darcy, per quanto le facesse piacere, valeva consolarla di una simile scoperta. Si mise con tutto l'impegno a dimostrare la probabilità di un errore, cercando di scolpare l'uno senza accusare l'altro. Non serve, le disse Elizabeth, non riuscirai mai a sostenerli entrambi. Scegli, ma accontentati di uno solo. Fra tutti e due c'è una così scarsa dose di merito che basta appena per farne passare per buono uno, e ci sono state da ultimo molte oscillazioni. Per parte mia sono incline a credere che sia tutto dalla parte del signor Darcy. Ma tu, fa come vuoi. Ci volle tuttavia un po' di tempo prima che potesse strappare un sorriso a Jane. Non mi ricordo di aver mai ricevuto un colpo del genere. Wickham, un così cattivo soggetto. È quasi da non credersi. E il povero signor Darcy? Ma pensa un poco a quel che deve aver sofferto, Lizzie cara. Che delusione. E per di più, la consapevolezza della tua disistima. E dover raccontare una cosa simile sul conto di sua sorella. È proprio troppo doloroso. Sono sicura che anche tu lo senti quanto me. Oh no, io non provo più né compassione né rimpianto da quando vedo che tu ne trabocchi a codesta maniera. So che tu gli renderai così ampiamente giustizia che mi sento di venire man mano più fredda e indifferente. La tua prodigalità desta in me il senso dell'economia e se continui per un pezzo a compiangerlo, mi sentirà il cuore leggero come una piuma. Povero Wickham. Ha un viso con un'espressione così buona e un fare così franco e garbato. C'è stato certamente qualche grosso errore di metodo nell'educazione di quei due giovani. Uno ha ricevuto tutta la bontà e l'altro tutta l'apparenza di essa. A me non è mai sembrato che il signor Darcy fosse tanto manchevole nell'apparenza come dicevi tu. Eppure io intendevo fare sfoggio di un'intelligenza non comune col prenderlo così decisamente in uggia, senza una ragione speciale. Serve di sprone al proprio ingegno, offre lo spunto per fare dello spirito, avere un'antipatia come quella. Si può continuare a insultare senza mai dir nulla di giusto, ma non si può continuare a prendersi gioco di una persona senza uscire ogni tanto in una trovata spiritosa. Lizzy, sono sicura che quando hai letto quella lettera per la prima volta non sei riuscita a prendere la cosa come la pigli adesso. Questo è vero, non ci sono riuscita, mi sono sentita notevolmente a disagio. Molto a disagio, direi quasi addolorata, e senza aver nessuno con cui parlare di ciò che provavo, senza nessuna Jane che mi consolasse e mi dicesse che non ero poi stata così debole, vana e sciocca come io sapevo di essere stata. Come mi sei mancata. Gran peccato che nel parlare al signor Darcy di Wickham tu abbia adoperato espressioni così forti che ora appaiono davvero affatto immeritate. Certo, ma il guaio di aver parlato con amarezza è una naturalissima conseguenza dei pregiudizi che io ero andata incoraggiando. C'è una cosa su cui desidero avere il tuo consiglio. Vorrei che tu mi dicessi se farei bene o no a far capire alle nostre conoscenze in genere che specie di uomo è Wicca. La signorina Bennet aspettò un momento prima di rispondere. Non c'è davvero ragione di svergognarlo così, e tu che ne pensi? Che è meglio non arrischiarvisi. Il signor Darcy non mi ha autorizzato a rendere pubbliche le sue informazioni, anzi, ogni particolare concernente sua sorella era inteso che dovessi tenermelo il più possibile per me. E se io tento di disingannare la gente per quanto riguarda il resto della sua condotta, chi mi crederà? Contro il signor Darcy c'è una prevenzione generale così decisa che equivarrebbe a far morire metà della brava gente di Meryton il cercare di metterlo in una luce favorevole. Io non me la sento. Tra poco Wickham se ne sarà andato e allora poco interesserà la gente di che sapere chi era veramente. Tra un po' di tempo tutto verrà a galla e allora noi potremo ridere della loro ingenuità per non averlo capito prima. Per ora io non ne dico nulla. Hai tutte le ragioni. Rendere di pubblico dominio i suoi errori potrebbero rovinarlo per sempre. Può darsi che ora si sia pentito di ciò che ha fatto e ci tenga a rifarsi una personalità. Non dobbiamo ridurlo noi alla disperazione. Quella conversazione valse a placare il tumulto del cuore di Elizabeth. Si era liberata di due dei segreti che da 15 giorni le gravavano sul cuore ed era certa di avere in Jane un'ascoltatrice volente e rosa ogni volta che avesse desiderato tornare sull'uno o sull'altro argomento. Pure rimaneva ancora qualcosa di segreto che la prudenza vietava di svelare. Non osò riferire l'altra metà della lettera del signor Darcy, né spiegare alla sorella quanto sincera fosse stata l'ammirazione dell'amico di Darcy per lei. Era questa una confidenza di cui nessuno poteva essere messo a parte, ed ella si rendeva conto che soltanto un'intesa perfetta fra le parti in causa avrebbe potuto giustificare il suo liberarsi anche dal peso di quest'ultimo mistero. Allora, si disse, se quell'improbabilissimo evento dovesse mai verificarsi, io potrò dire soltanto quello che Bingley può dire da solo in modo molto più gradevole. Non potrà permettermi di parlare liberamente finché tutto non sarà acqua passata. Ora che si era ristabilita a casa, aveva agio di osservare le vere condizioni di spirito di sua sorella. Jane non era felice, nutriva ancora per Bingley un tenerissimo affetto e non essendosi mai prima neppure immaginata di essere innamorata, il suo sentimento aveva tutto il calore di un primo amore. Anzi, data la sua età e la sua natura, mostrava una maggiore costanza di quella che generalmente vantano i primi amori. Ed era così fervente nel ricordo di lui e lo preferiva di tanto ad ogni altro giovane che doveva fare appello a tutto il suo buonsenso e a tutta la sua considerazione per i sentimenti dei suoi amici per trattenersi dall'indulgere a quei rimpianti che sarebbero riusciti nocivi alla sua salute e alla loro tranquillità. Dunque, Lizzy, disse un giorno la signora Bennet, che cosa ne pensi ora di questa triste faccenda di Jane? Per conto mio sono decisa a non farne mai più parola con nessuno. L'ho detto l'altro giorno a mia sorella Phillips. Ma non riesco a capire se Jane l'abbia veduto a Londra oppure no. Comunque un giovanotto che non si merita nulla e ormai credo che non ci sia più la minima speranza al mondo di ripescarlo. Non si parla appunto di un suo ritorno a Netherfield per quest'estate e sì che ho domandato a tutti quelli che erano in grado di saperlo. Non credo che abiterà mai più a Netherfield. Oh, beh, faccia un po' come gli pare, nessuno ha bisogno che venga, però io avrò sempre da dire che ha trattato malissimo con la mia figliola. E se fossi lei, non mi sarei rassegnata. Ma quel che mi consola è che sono sicura che Jane morrà di crepacuore e allora lui si pentirà di quel che ha fatto. Non potendo ricevere conforto da una simile speranza, Elizabeth non rispose. E allora, Lizzy? I Collins fanno una vita molto comoda, non è vero? Bene, bene, mi auguro soltanto che duri. E che genere di vitto fanno? Charlotte deve essere un'ottima donna di casa, direi. Se soltanto è economa la metà di sua madre, ne mette da parte abbastanza. Non ci sarà pericolo di prodigalità nel loro governo di casa, non è vero? No, affatto. Già un bel po' di economia, te lo dico io. Già, già. Loro saranno sempre di quelli che si preoccupano di non spendere più di quel che guadagnano. Loro saranno di quelli che non si disperano mai per i quattrini. Ebbene, buon pro gli faccia. E così immagino che parlino spesso di ereditare Longbourn quando il suo babbo sarà morto. Lo considerano già di loro proprietà, mi figuro, in qualunque momento capiti. Era un argomento che non potevano trattare davanti a me. Già sarebbe stato strano che l'avessero fatto, ma non metto in dubbio che ne parlino spesso fra di loro. Beh, se si sentono tranquilli con un bene che non spetta loro legalmente, tanto meglio. Io mi vergognerei di averne uno che mi fosse anche soltanto vincolato. Capitolo 41. La prima settimana dal loro ritorno fu presto passata. Cominciò la seconda, l'ultima del soggiorno a Meriton del reggimento, e le signorine della contrada deperivano a vista d'occhio. La desolazione era quasi universale. Solamente le maggiori delle signorine Bennet erano ancora capaci di mangiare, bere, dormire e attendere al normale corso delle loro occupazioni. Per questa loro insensibilità venivano spesso rimproverate da Catherine e da Lydia, la cui disperazione era davvero assoluta e non consentiva loro di capire tanta durezza di cuore in qualcuno della famiglia. Santo cielo, che sarà di noi? Che faremo? Esclamavano sovente al colmo dell'afflizione. Come fai a essere così sorridente, Lizzy? La loro tenera mamma prendeva viva parte al loro dolore. Si ricordava che cosa aveva patito lei stessa in una circostanza analoga, 25 anni prima. Sono sicura che piansi per 2 giorni di seguito quando partì il reggimento del colonnello Miller. Credevo che mi si spezzasse il cuore. Io sono sicura che mi si spezzerà il mio, replicò Lydia. Oh, se soltanto si potesse andare a Brighton, osservò la signora Bennet. Eh sì, se soltanto si potesse andare a Brighton. Ma il babbo è così contrario. Qualche bagno di mare mi rimetterebbe in sesto per sempre. E zia Phillips dice che a me farebbero un gran bene, soggiunse Catherine. Di tal genere erano le lamentele che risuonavano senza fine nella casa di Longbourn. Elizabeth cercava di esserne divertita, ma ogni senso di spasso si smarriva nella vergogna. Sentiva di nuovo tutta l'esattezza delle obiezioni del signor Darcy e mai si era trovata prima tanto disposta a perdonare l'interferenza di lui nei piani dell'amico. Ma poco dopo le cupe previsioni di Lydia si rischiararono, poiché ricevette dalla signora Forster, la moglie del colonnello del reggimento, l'invito ad accompagnarla a Brighton. Quella impareggiabile amica era giovanissima e sposata da molto poco tempo. Un'affinità di buon umore e di brio aveva attratto lei e Lydia l'una verso l'altra. Si conoscevano da 3 mesi e già da 2 erano diventate intime. L'entusiasmo di Lydia in una simile occasione, la sua adorazione per la signora Forster, la gioia della signora Bennet e la mortificazione di Catherine si possono a stento descrivere. Del tutto noncurante dei sentimenti di sua sorella, Lydia svolazzava per la casa in uno stato di perpetua estasi, sollecitando i rallegramenti di ognuno e ridendo e ciarlando più rumorosamente del consueto, mentre la sventurata Catherine, in salotto, continuava a dolersi della sua sorte in termini tanto balordi quanto bisbetico era il suo tono. Non riesco a capire perché la signora Forster non abbia invitato anche me assieme a Lydia, benché non sia la sua migliore amica. Ho altrettanto diritto di essere invitata di quanto ne ha lei, anzi di più perché ho 2 anni più di lei. Invano Elizabeth cercò di indurla alla ragione e Jane a rassegnarsi. Quanto a Elizabeth, questo invito era così lontano da destare in lei gli stessi sentimenti suscitati in sua madre e in Lydia, che lo considerò anzi come il colpo fatale per qualunque possibilità di rinsavimento per quest'ultima. E per quanto odiosa, l'avrebbe resa a questo passo se fosse stato conosciuto. Non poté far meno di consigliare segretamente il padre a non permetterle di andare. Gli raffigurò tutte le sconvenienze del contegno di Lydia in generale, lo scarso vantaggio che la sorella poteva trarre dall'amicizia di una donna come la signora Forster e la probabilità che una simile compagna a Brighton avrebbe reso l'altra ancora più imprudente, visto che le tentazioni sarebbero state certo maggiori che non a casa. Egli l'ascoltò attentamente, poi disse: Lydia non sarà contenta finché non si sarà coperta di ridicoli in un luogo o nell'altro, e non possiamo sperare che ci arrivi con minor spesa o disturbo per la famiglia di quanto le consente questa occasione. Se lei sapesse, ribatté Elizabeth, tutto il disdorno che deriverà a noi dalla pubblica constatazione della condotta incontrollata e imprudente di Lydia, anzi, che è già derivato, son certa che giudicherebbe in modo diverso la faccenda. Già derivato, ripeté il signor Bennet. Come sarebbe a dire? Ha già fatto scappare per lo spavento qualche tuo adoratore? Povera piccola Lizzy? Ma non abbatterti. Questi giovani schizzinosi che non possono sopportare di avere a che fare con gente un poco strampalata non meritano di essere rimpianti. Su, fammi vedere l'elenco di quei disgraziati che si sono tenuti alla larga per via della storditaggine di Lydia. Lei si inganna davvero. Non ho da lagnarmi di affronti di questo genere. Non temo per ora mali particolari, ma mali generali. La considerazione e l'onorabilità di cui godiamo nel mondo saranno intaccate dalla sfrenata volubilità, da quella sicurezza di sé, quello sprezzo di ogni restrizione che sono caratteristici di Lydia. Mi perdoni di parlarle così apertamente, ma se lei, caro babbo, non si prenderà il fastidio di frenare la sua esuberanza e di insegnarle che i suoi tali passatempi non devono formare l'unico oggetto della sua vita. Presto, Lydia, sarà andata troppo in là per emendarsi. Si sarà ormai formata il carattere e a 16 anni sarà il tipo più perfetto di civetta che mai abbia coperto se stessa e la propria famiglia di ridicolo. Ma una civettina della peggiore e più bassa specie, senza alcuna attrattiva all'infuori della gioventù e di un discreto personale, e per la sua totale ignoranza e la sua insulsaggine, affatto incapace di stornare una sola frazione di quel disprezzo universale che si sarà attirata per la smania di farsi ammirare. A questo pericolo del resto non è estranea Catherine, che seguirà Lydia ovunque. Vanesi e ignoranti, pigre e prive di qualunque controllo. Oh, babbo caro, come può credere che non saranno criticate e disprezzate ovunque si faranno conoscere e che le loro sorelle non saranno spesso coinvolte nei guai da loro provocati? Il signor Bennet capì che la sua figliola aveva parlato con tutto il cuore e prendendole teneramente una mano le rispose. Non tormentarti, tesoro mio. Ovunque tu e Jane vi facciate conoscere, non potrete a meno di essere rispettate e apprezzate. E non apparirete in luce meno favorevole per il fatto di possedere un paio, o diciamo pure tre, stupidissime sorelle. A Longbourn non avremo più pace se Lydia non andrà a Brighton. Lasciatela andare allora. Il colonnello Forster è un uomo di buon senso e la terrà lontana da ogni pericolo vero e proprio. E per fortuna Lydia è troppo povera per destare le cupidigie di chi che sia. A Brighton sarà tenuta in minor conto di qui anche nella sua qualità di civettina. Gli ufficiali troveranno donne più degne della loro attenzione. Speriamo quindi che il soggiorno colà le serva di lezione per la sua storditaggine. In ogni modo non può peggiorare ancora di molto se non vuole autorizzarci a tenerla rinchiusa per il resto della sua esistenza. Fu gioco forza per Elizabeth accontentarsi di questa risposta, ma le sue opinioni restarono immutate ed ella lasciò il babbo addolorata e delusa. Non era tuttavia nella sua natura di accrescersi i crucci con l'insistervi sopra. Sentiva di aver fatto il proprio dovere e non era conforme al suo carattere agitarsi per mali inevitabili o peggiorarli con uno stato d'angoscia. Se Lydia e sua madre avessero conosciuto il succo del suo colloquio col babbo, lo sdegno della loro congiunta leggerezza avrebbe potuto a stento trovare espressione. Nell'immaginazione di Lydia, un soggiorno a Brighton comprendeva tutte le possibilità di gioia terrena. Col fervido occhio della fantasia, vedeva le strade di quella gaia stazione balneare coperte di ufficiali, per decine, per ventine dei quali, attualmente sconosciuti, ella sarebbe divenuta oggetto di attenzione. Vedeva tutte le meraviglie del campo con le sue tende allineate in bell'ordine, popolate di gioventù gioconde e scintillanti di scarlatto, e a completare il quadro vedeva se stessa seduta sotto una di quelle tende, in teneri conversari con almeno sei ufficiali alla volta. Quali sarebbero stati i suoi sentimenti se avesse saputo che sua sorella cercava di strapparla da simili progetti, da simili realtà? Soltanto la madre, le cui reazioni sarebbero state pressappoco identiche, avrebbe potuto comprenderla. Il fatto che Lydia andasse a Brighton era tutto ciò che riusciva a consolarla nella sua malinconica persuasione che il marito non si sarebbe mai deciso ad andarci. Ma esse erano completamente all'oscuro di quanto si era svolto e i loro entusiasmi continuarono, salvo qualche breve intervallo, fino al giorno della partenza di Lydia. Ora Elizabeth doveva vedere il signor Wickham per l'ultima volta. Essendosi trovata sovente con lui dopo il suo ritorno, non era quasi più il caso di parlare di agitazione. Le ansie derivanti dalla sua precedente simpatia per lui erano ormai interamente superate. Aveva anzi imparato a scorgere, proprio in quella affabilità che da principio l'aveva affascinata, una certa affettazione e una monotonia fatte per disgustare e venire a noia. Inoltre, nel suo attuale contegno verso di lei provava nuova fonte di fastidio, poiché la tendenza di cui subito egli diede prova a voler rinnovare quelle premure che avevano caratterizzato la prima fase della loro conoscenza, ora, dopo quel che era avvenuto, non poteva servire che a provocarla. Anzi, nel vedersi così prescelta oggetto di tanta vana e frivola galanteria, gli perdette interamente la stima e mentre continuava a opporre strenua resistenza alla sua corte, non poteva a meno di sentire il biasimo contenuto nella convinzione del giovane, che, quando anche le sue attenzioni fossero state da tempo e per una ragione qualsiasi interrotte, la vanità di lei ne sarebbe pur sempre rimasta lusingata e con rinnovarle egli si sarebbe in ogni modo assicurato la sua preferenza. L'ultimo giorno della permanenza a Meriton del reggimento, egli fu invitato a pranzo a Longbourn con altri ufficiali, ed Elizabeth era così poco inclina ad accomiatarsi da lui in buoni rapporti che quando egli le rivolse qualche domanda circa il modo in cui aveva trascorso il tempo a Hainsford, ella accennò al fatto che sia il colonnello Fitzwilliam sia il signor Darcy avevano passato a Rosings 3 settimane e gli chiese se conoscesse il colonnello. Egli apparve sorpreso, contrariato, inquieto, ma dopo aver riflettuto un istante e aver ritrovato il sorriso, le rispose che in passato si era spesso trovato con lui. Poi, dopo aver osservato che era una persona molto distinta, le domandò che impressione ne avesse riportato. Elizabeth si espresse in termini calorosi sul colonnello, con aria indifferente, egli soggiunse poco dopo. Quanto tempo ha detto che si è trattenuta a Rosings? 3 settimane circa. E l'ha veduto spesso? Sì. Quasi ogni giorno. È molto diverso dal cugino. Sì, diversissimo, ma direi che il signor Darcy ci guadagna ad essere conosciuto. Perbacco! Esclamò Wickham con uno sguardo che non sfuggì ad Elizabeth. E posso chiederle di grazia, ma si frenò. E soggiunse con tono più gaio. Ha forse migliorato il suo modo di fare? Si è dunque degnato di aggiungere un tantino di urbanità al suo stile consueto? Poiché non oso sperare che sia migliorato nella sostanza. Oh, no, esclamò Elizabeth. Nella sostanza credo che sia rimasto tal qual com'era. Mentre ella parlava, Wickham sembrava non saper bene se rallegrarsi delle sue parole o diffidare del loro significato. C'era un non so che nel contegno della sua interlocutrice che lo induceva ad ascoltare con apprensione, con sollecitudine ansiosa. Elizabeth soggiunse. Quando ho detto che guadagna essere conosciuto, non intendevo dire che la sua mente o le sue maniere fossero in via di miglioramento, ma che conoscendolo meglio se ne capisce meglio il carattere. L'inquietudine di Wickham si rivelò allora con un rossore accentuato e uno sguardo ansioso. Rimase zitto per qualche minuto, poi scuotendosi dall'imbarazzo, le rivolse di nuovo, dicendole con gli accenti più dolci. Lei, che conosce così bene i miei sentimenti per il signor Darcy, comprenderà certo quanto sinceramente io mi rallegri di sapere che gli è abbastanza accorto da salvare, se non altro, le convenienze. In questo senso, il suo orgoglio può riuscire utile, se non proprio lui, a molti altri, in quanto lo terrà lontano da quella deprecata linea di condotta per la quale io invece ho sofferto. Temo solamente che quella specie di cautela alla quale mi pare lei abbia alluso sia unicamente adottata in occasione delle visite alla zia, della cui opinione egli ha un sacrosanto timore. La paura di lei, lo so bene, ha sempre sortito il suo effetto quando si trovavano insieme e molto va ascritto al desiderio di affrettare la sua unione con la signorina De Bourgh, unione che, ne son certo, gli sta molto a cuore. A queste parole Elizabeth non seppe reprimere un sorriso, rispose soltanto con un leggero cenno del capo. Se vide che egli desiderava impegnarla nell'antico argomento delle sue sofferenze e non si sentì disposta a essere indulgente con lui. Il resto della serata passò per parte di lui nella parvenza della consueta gaiezza, ma senza ulteriori tentativi di far colpo su Elizabeth. E alla fine si separarono con reciproca cortesia, forse anzi con il reciproco desiderio di non incontrarsi mai più. Quando la riunione si sciolse, Lydia fece ritorno a Meryton con la signora Forster. Di là avrebbero dovuto partire di buon'ora l'indomani mattina. Il suo distacco dalla famiglia fu piuttosto rumoroso che commovente. Catherine fu la sola a versare lacrime, ma piangeva di rabbia e di invidia. La signora Bennet si diffuse in auguri per la felicità della figliola e fu addirittura perentoria nell'ingiungerle di non lasciarsi sfuggire l'occasione di divertirsi il più possibile. Consiglio che verrà ogni motivo di credere sarebbe stato seguito, e nella clamorosa gioia di Lydia nel salutare, i più affettuosi addii delle sue sorelle furono pronunciati senza essere uditi.